Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Beniamino Catena, regista del film Io sono Vera, al cinema da giovedì 17 febbraio 2022. Ben trovato! Ciao, ciao, ciao a tutti! Che racconto è questo? Un racconto di fantascienza. Hanno fatto tanta fatica a definirlo, ma direi che, visti i premi ottenuti in tutte le diverse parti del mondo nei festival di cinema di fantascienza, diciamo che è di fantascienza, anche se è molto difficile da collocare, cioè nel senso che ingloba più generi. Cosa possiamo raccontare della trama? È la storia di una ragazzina di 10 anni che sta per compiere l'11°, quindi in un momento molto delicato della sua vita, in seguito a un lutto diventa ossessionata da dove si va a finire, del vuoto che gli si crea attorno. E quindi con un coraggio strepitoso, un desiderio irrefrenabile di capire cosa c'è, dove può essere il suo amato cane che non c'è più nella realtà quotidiana, lei compirà un viaggio nel vuoto, in senso letterale proprio, e capirà che quel vuoto non è vuoto ma pieno, pieno di tutte quelle particelle che compongono gli esseri viventi. Può sembrare, detto così, un po' troppo intellettuale. Ovviamente quando lei ritorna riuscirà a sanare tutte le sofferenze che ha provocato con la sua assenza, e quindi c'è anche una sorta di dramma familiare, quindi riuscirà a portare amore anche a coloro che ha fatto soffrire. Come ha avuto origine il progetto? Proprio in seguito a una perdita che, diciamo, è stata sublimata soprattutto con la creazione di questo racconto, nel senso che è stato un po' un tentativo di rispondere a quesiti piuttosto impossibili da decifrare nella realtà di tutti i giorni. Poi, soprattutto nel momento in cui siamo tutti connessi, perdiamo sempre più di vista la connessione con la natura stessa, e Vera fa un po' questo nel film, si connette con la natura. Nel realizzarlo hai avuto dei riferimenti filosofici e anche cinematografici? Sì, tantissimi ovviamente. Posso dirne uno su tutti, nel senso che le letture appassionate della nuova fisica mi ha ispirato tantissimo. Posso citare uno su tutti, il Tao della fisica di Fritjof Capra, uno straordinario saggio che mette in relazione i concetti della fisica con i concetti più spirituali della mistica, delle religioni orientali soprattutto. Ma non è un lavoro New Age, il New Age secondo me è sorpassato ormai. Oggi la nuova fisica risponde a tanti quesiti che la religione ha cercato di fare negli ultimi 3.000 anni. E dal punto di vista cinematografico? Posso dirti qualche nome, perché anche lì potrei starci una giornata intera a parlartene, però potrei dirti Kieslowski quanto Wenders quanto John Carpenter. È stato anche un viaggio fisico in più parti del mondo. Sì, è stata un'avventura esaltante perché abbiamo girato in Liguria, nella costa di Ponente, e poi siamo partiti, siamo andati in Cile, perché il film è una coproduzione Italia-Cile. Siamo andati in Cile nel deserto di Atacama, che è un posto straordinario, per girare, perché volevamo girare assolutamente nell'osservatorio più grande del pianeta, che è l'ALMA. Questi luoghi geografici già li avevi in mente all'inizio dell'idea? Sì, perché prima ancora di avere una coproduzione con il Cile l'abbiamo cercata proprio perché volevamo girare là, perché la storia era ambientata tra il qui e là, perché c'è una connessione tra questa bambina scomparsa e un uomo, questa bambina scomparsa che adora osservare le stelle, è una piccola astronoma, e un uomo che fa il vigilante nell'osservatorio più grande del pianeta, ma che se ne frega totalmente della bellezza che potrebbe osservare in quei luoghi, in quanto non c'è umidità e quindi a occhio nudo vedi addirittura le sfumature di nero oltre alle stelle luminosissime. Durante la realizzazione è cambiato qualcosa rispetto all'idea di partenza? No, direi che siamo stati molto precisi sul set, abbiamo rispettato piuttosto bene la sceneggiatura, poi è ovvio che si improvvisa sempre qualcosa. Che tipo di uscita sarà? Che distribuzione avete scelto? Lo distribuisce la Nomad Entertainment in Italia e la Coccinelle Film all'estero. In Italia, vista anche la situazione del cinema post-Covid, non è semplice, quindi uscirà in cinema selezionati e in poche copie. Ci saranno anteprime a Torino, Milano, Roma e poi avrà il suo giro per il resto del paese. È già uscito in Sud America e sta per uscire negli Stati Uniti in streaming. Per saperne di più sulle sale e sulle date, ci sono dei riferimenti web, un sito internet, pagine social... Sì, si può controllare My Movies, Coming Soon, oppure sulla pagina stessa del film, Io sono Vera, sul sito della Nomad Entertainment e quant'altro. Il film Io sono Vera al cinema da giovedì 17 febbraio 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Beniamino Catena. A presto! Grazie, grazie a voi. Con Ciro De Caro, regista del film Giulia, al cinema da giovedì 17 febbraio 2022. Ben trovato! Buongiorno, ben trovati a tutti. Come lo presenteresti il tuo film? È sempre una domanda che mi mette in difficoltà perché sono proprio la persona meno adatta. Io rovino i film miei e quelli degli altri quando li devo raccontare, però capisco che è una cosa che va fatta. Diciamo che è un film sincero, molto vero, ironico, divertente e drammatico allo stesso tempo e racconta di un personaggio femminile molto particolare che si fa odiare ma che fa venire voglia di... amarlo anche e di coccolarlo. Era questo quello che volevamo raccontare, un personaggio femminile inedito, no, però insolito sì, ecco, nel panorama del cinema italiano, secondo noi. Poi non abbiamo la pretesa di voler fare qualcosa di totalmente nuovo e che si muove in una Roma nella prima estate dopo il primo lockdown, quindi sullo sfondo c'è questa follia che rende lei e i personaggi folli che incontra, con cui si accompagna in dei caldi giorni estivi un po' più normali, ecco, sono dei pazzi resi un po' più normali da tutto quello che gli accade attorno. E sono soprattutto lei, personaggi insomma che non hanno un posto nel mondo, vivono un po' ai margini, non perché sono effettivamente emarginati, ma perché semplicemente conducono delle vite che per molti potrebbero anche essere normali, visto che conosco molte persone, io stesso mi sento un po' come loro, e però non vengono compresi dalla maggioranza delle persone, che loro sì vivono una vita un po' più canonica, diciamo, che sanno quello che gli accadrà il giorno dopo, fra un mese e fra un anno, che hanno tutta la vita pianificata. Ecco, così sono persone che cercano il loro posto nel mondo e non si sa bene se lo vogliono trovare, e, insomma, con ironia, con follia, con i loro drammi, insicurezze, ci aprono una finestra su persone strane ma che ti viene voglia di starci un po' in compagnia, ecco. C'è un bell'omaggio anche a un altro lavoro, non so se lo vogliamo svelare. Diciamo che c'è una scena, rivelo subito, insomma, uno dei miei film preferiti è Estate Romana di Matteo Garrone. C'è una scena che richiama un po' una scena del film di Matteo Garrone, c'è una festa su un terrazzo dove c'è un signore che fa una specie di monologo sul teatro, e c'è una scena molto simile in questo film. Quando l'abbiamo scritta, io devo essere sincero, non avevo pensato immediatamente a Estate Romana, ma evidentemente quel film l'ho visto talmente tante volte che ho detto, ma sai che ricorda questa. Cioè, in effetti sì, e sono stato ancora più contento di mettercela, insomma, poi è stata riscritta più volte, ovviamente quella era la prima stesura, insomma, spero che come omaggio, come citazione, che qualcuno, ecco, faccia vedere questo film a Matteo Garrone, anche un appello che lancia. Prima hai usato espressioni al plurale, il che fa pensare a un lavoro di squadra, ecco, come è nato il progetto? È nato insieme a Rosa Padasciano, che è la protagonista del film, interpreta Giulia ed è anche la cosceneggiatrice. Io mi sono trovato molto bene con lei. Io ho fatto, questo è il terzo film, e non nascono mai come un progetto, cioè non penso mai, oddio, voglio fare un film, vediamo se mi viene in mente un'idea. Nasce sempre tutto da qualche sassolino dalla scarpa che mi voglio togliere, una dichiarazione d'amore che voglio fare a una persona o a una categoria di persone, qualche cosa che non riesco a dire a persone a cui voglio bene, invece grazie a un film posso permettermi di dirlo. Diciamo, ci siamo trovati con Rosa perché proprio abbiamo voluto raccontare qualcosa di sincero senza stare troppo a calcolare in maniera canonica, in maniera classica, secondo le regole, tutti i passaggi della sceneggiatura, tutti i personaggi. Quindi è nato proprio di pancia, dalla voglia di anche... Questo forse sono un po' presuntuoso a dirlo, io ho conosciuto Rosa e ho visto in lei una grandissima attrice, un talento veramente puro e istintivo, e dico, io voglio essere io il primo a fare un film con quello. Quindi ho detto, scriviamo una storia con un personaggio femminile veramente particolare. Quindi da questa presunzione, da questa voglia anche di mostrare al mondo un talento così, è nata l'idea di Giulia. E poi perché mi andava di fare una carezza, di fare una coccola a un certo tipo di persone, appunto, che io conosco, a cui voglio bene e che vorrei che fossero un po' più rappresentate nel cinema, non solo come stereotipi e macchiette, ma come personaggi veri, come persone che esistono realmente. Che uscita sarà? Quante copie? Mi dicono la distribuzione che l'ultima settimana si avrà il numero esatto, ma io suppongo che sicuramente una cosa non va detta e faccio gli scongiuri, però sicuramente 25, 30, insomma forse anche di più, vediamo, sono scaramantico, per un film così indipendente sarebbe un bel traguardo avere un numero così di copie. Il film Giulia al cinema da giovedì 17 febbraio 2022. Un saluto e un ringraziamento alla regista Ciro De Caro. Alla prossima! Grazie a tutti e ci vediamo al cinema. Con Sara Luraschi, co-regista del film Vagli a spiegare che è primavera, su OpenDDB Distribuzioni dal basso e al cinema da lunedì 14 febbraio 2022. Ben trovata! Grazie, ciao a tutte e a tutti. Qual è il vostro racconto? È un documentario nato come pensiero all'inizio del 2018 in questo spazio, che è uno spazio artistico, che appunto lavora sulla ricerca dell'identità di genere, ma anche dell'identità in senso più ampio, con adolescenti e giovani. Io e Lucio, che è il co-regista del film, che è un drammaturg teatrale, io sono una videomaker, conduciamo appunto questo laboratorio che si chiama Sguardi di un certo genere e abbiamo pensato di raccontare un po' queste esperienze in un film. Abbiamo iniziato a girare a inizio 2020 il film, ma poi appunto dopo poco si è trasformato in un racconto un po' diverso, perché siamo insomma finiti dentro in questo momento di grande crisi della pandemia e quindi il racconto ha intrecciato la nostra ricerca artistica con il confinamento che stavamo vivendo. Cosa vi ha stimolato di questa esperienza al punto di pensare di realizzarne un documentario? Ci sembrava interessante appunto che queste 8 persone, che poi sono i protagonisti e le protagoniste del film, cercassero un po' di trovare la loro identità attraverso però una ricerca artistica e quindi facendo arte insieme e cercando di mettere insieme un po' anche tutte le loro differenze, dato che sono persone molto diverse sia per identità che per orientamento che per provenienze anche socioculturali, e quindi volevamo insomma raccontare uno spazio collettivo, uno spazio dove fare ricerca insieme, dove anche agire artisticamente e anche politicamente insieme. Il periodo del film li racconta in un'età che va dai 17 ai 26 anni, però la più piccola Carolina ha iniziato a partecipare a questo gruppo quando ne aveva solo 14 e il più grande appunto, che Yuri, che nel film ne ha 26, aveva iniziato a 20 anni, quindi insomma anche età molto diverse però accomunate appunto da una fase di trasformazione. Come avete pensato di articolare il lavoro? È diviso per capitoli e sono dei capitoli che sono introdotti sempre da una parola, che sono parole su cui noi abbiamo lavorato durante il lockdown, nel senso che appunto non potendoci più incontrare di persona abbiamo aperto degli spazi virtuali. Uno era Zoom e molte riprese del film in realtà sono registrazioni di nostri incontri, conversazioni in Zoom, e un altro spazio era una chat Telegram dove noi ci scambiavamo materiali di vario genere, testi, fotografie, immagini, anche materiali scritti da loro, per continuare ad andare avanti comunque a fare arte anche a distanza. E quindi il film racconta sia la parte di laboratorio in presenza prima della pandemia, che tutto il periodo del confinamento, del primo lockdown, e poi quando ci siamo ritrovati e ritrovate negli spazi aperti dell'estate 2020 per costruire una performance finale, che poi abbiamo girato ed è parte del film, ed è il finale del film, dentro uno spazio molto importante per la città di Bergamo, che è l'ex carcere di Sant'Agata, che non è più un carcere dalla fine degli anni 70, adesso è uno spazio culturale gestito da alcune associazioni, da realtà di giovani, e ci sembrava insomma uno spazio significativo rispetto anche proprio al periodo storico che stiamo vivendo. Qual è la vita di questo spazio? Quali sono le sue attività? Questo spazio è nato nel 2015 come un progetto delle politiche giovanili del Comune di Bergamo, poi quasi subito è entrata la collaborazione con Orlando, che è un'associazione che organizza a Bergamo un festival di cinema, danza, teatro, arti performative sulle identità, sulle questioni di genere, e quindi da questa unione di questi due progetti è nato poi un gruppo che nel tempo è diventato un collettivo artistico, diciamo, nel senso che le persone sono rimaste, e da quello che poteva essere inizialmente un laboratorio appunto degli spazi giovanili è diventato proprio un collettivo che lavora insieme. In realtà dopo il film queste persone, anche perché sono diventate grandi, insomma adesso lavorano, hanno un po' ognuno preso la propria strada, anche se ancora un po' collaboriamo, hanno chiuso questa esperienza, e noi quest'anno abbiamo ricominciato proprio da pochissimo con un nuovo gruppo, sempre un po' con la stessa, diciamo, linea formativa e performativa dell'unire il teatro, le arti visive alle questioni appunto dell'identità e del genere, ma non solo, appunto, perché poi ognuno porta un po' la sua biografia e cerca di trasformarla in una pratica artistica. La scelta di questo titolo? È una citazione di De André nella mia ora di libertà, nasce dal fatto che appunto durante il primo lockdown ci scambiavamo, come dicevo prima, questi materiali tramite la chat Telegram, e un ragazzo del gruppo, Yuri, a un certo punto proprio nel marzo 2020 ci ha mandato questo pezzo di De André e ci ha colpito molto questa frase, perché stavamo vivendo tutti questa primavera chiusa nelle nostre case, e quindi ci sembrava la frase migliore che potesse raccontare quel momento, ma anche una fase della vita che per le persone adolescenti, soprattutto tutti questi due anni, sono stati molto faticosi, ma in particolare appunto quei mesi di confinamento, di didattica a distanza, sono stati anche veramente un po' la perdita di una primavera, e quindi insomma ci siamo affidati ad André. Che percorso sarà ora tra l'online e il cinema? Noi speriamo di andare anche in sala, perché ovviamente vedere un film al cinema insieme è sempre il modo più intenso per fruirlo, però ci tenevamo molto a uscire con OpenDDB, oltre che per il fatto che è una realtà in cui crediamo e che ci ha tra l'altro da subito sostenuto insomma nel progetto, anche perché ci interessa che questo film arrivi il più possibile soprattutto alle persone che hanno l'età dei protagonisti e delle protagoniste del film, quindi adolescenti e giovani. E quindi insomma speriamo che la diffusione in streaming possa davvero portare il documentario a queste persone, che peraltro noi anche stiamo cercando di incontrare facendo proiezioni nelle scuole, cercando sempre contesti a cui proporre il film, non soltanto per l'aspetto cinematografico ma anche per aprire poi una discussione sui temi che portiamo nel film. Il documentario Vagli a spiegare che è primavera, su OpenDDB distribuzioni dal basso e al cinema da lunedì 14 febbraio 2022. Un saluto e un ringraziamento alla coregista Sara Luracchi. A presto! Grazie, grazie mille, grazie. con Stefano Finesi dell'associazione La Farfalla sul Mimino, uno dei curatori dell'undicesima edizione della rassegna A qualcuno piace classico, appunti di storia del cinema, a Roma, Palazzo delle Esposizioni, dal 25 gennaio al 31 maggio 2022. Ben trovato! Ciao Federico, ciao a tutti! Per chi non conoscesse questa lunga tradizione, descriviamo cos'è il progetto. Sì, ormai siamo arrivati all'undicesimo anno, quindi è diventato un po' un punto di riferimento per tutti gli appassionati di cinema. È un progetto divulgativo molto semplice, sono dei grandi classici della storia del cinema che presentiamo sempre solo in pellicola, 35 mm, con cadenza bisettimanale, quindi un martedì sì e uno no. Nell'arco della stagione si possono rivedere questi grandi film. L'ingresso è sempre gratuito, a causa della pandemia bisogna prenotarsi sul sito per evitare poi gli assembramenti fuori, quindi a partire dalle 9 del giorno prima ci si può prenotare. Questa è una cosa anche più comoda da parte del pubblico, soprattutto d'inverno, per non magari far la fila fuori. Partiamo martedì 25 gennaio con Le Parapluie de Cherbourg, che forse ecco, gli spettatori più giovani conoscono meno. All'epoca vinse la Palma d'Oro, il film forse più famoso di Jacques Demy, lanciò di fatto Catherine Deneuve, che all'epoca era giovanissima. E rispetto agli altri anni volevo segnalarvi un paio di cose. Una è una bellissima novità, che è la collaborazione con il Sindacato Nazionale dei Critici Cinematografici. Quindi da quest'anno tutte le proiezioni hanno una breve introduzione di un critico del sindacato, che appunto offrirà al pubblico un po' una bussola per orientarsi, un contesto insomma, per apprezzare più il film. Questa è una cosa che ci fa molto piacere, trattandosi di un evento che comunque ha un carattere divulgativo, avere uno strumento in più è sempre importante. Quante le opere nel complesso e poi che arco temporale coprono? Sono 10 titoli. Noi di solito andiamo sempre dal muto agli anni 80, non andiamo oltre gli anni 80, più o meno, insomma. Non so se forse è una cosa generazionale, anche se alla fine, tutto sommato, anche un film della fine degli anni 90 oggi è possibile considerarlo un classico dopo 25 anni. Però non so, forse è una cosa generazionale che per i classici ci fermiamo agli anni 80. Il film più vecchio che facciamo è questo Michael, che è un muto di Dreyer. Molti probabilmente conoscono Dreyer soprattutto per la Giovanna d'Arco, che insomma è uno dei grandi titoli del muto. Però anche questo è un titolo meno conosciuto, però molto interessante. E come sempre è una formula usuale, lo faremo accompagnato dal vivo al pianoforte, lo presenterà Adriano Aprà. Peraltro è una curiosità abbastanza particolare, è stato in assoluto uno dei primi film a raccontare un amore omosessuale. Poi ecco, conosciamo Dreyer, è un regista che ha questa sua poesia introspettiva e visionaria, per cui vale sempre la pena riscoprirlo anche nei titoli più nascosti. Com'è stata la scelta quest'anno? Ci stanno dei temi che emergono, quello un po' del musical, perché oltre Le Parapluie de Cherbourg abbiamo anche La Vedova Allega di Lubitsch, che è tratto dall'operetta di Lear, e anche poi West Side Story, l'originale di Robert Wise e Jerome Robbins. Molti magari hanno visto il remake di Spielberg, che è uscito qualche mese fa, per cui è una buona occasione per recuperare l'originale in sala, in pellicola. E l'altro tema, secondo me sotterraneo interessante, è un tema forse più politico. Presenteremo La parola ai giurati, questo il 3 maggio, di Sidney Lumet, titolo di culto, esempio perfetto di quel cinema civile americano degli anni 50. Però per assurdo, proprio dagli anni 50 c'è anche un altro film, che è Mezzogiorno di fuoco, che è un classico del western, ma che può essere anche letto come metafora del maccartismo. Lo stesso sceneggiatore, Carl Foreman, fu una delle vittime del maccartismo. Il maccartismo torna anche in Imbarco a mezzanotte di Losey, che è il film che chiude poi il 31 maggio la rassegna. Losey è stato vittima del maccartismo e scoprì di essere finito sulla lista nera addirittura mentre girava questo film in Italia. E infatti poi il film uscì non con la sua firma, non poté montarlo, ma per quanto sia un titolo minore, diciamo, nella filmografia di Losey, rimane un film molto interessante. Lo presentiamo nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna. Da quali strutture arrivano i film? Per esempio, ecco, la parola I giurati viene da Londra, è un restauro fatto da Park Circus a Londra, ed ecco, è forse la copia più preziosa tra quelle che presentiamo. Poi, ti ho detto, Il barco a mezzanotte viene da Bologna, poi ce ne stanno diverse che arrivano dalla La Bottanta di Bergamo, che è il nostro partner abituale, e poi ci sono altri titoli che vengono anche da collezioni private. Mezzogiorno di fuoco viene invece dalla Cineteca Griffith di Genova. Hai fatto qualche bella scoperta a proposito dei materiali d'archivio? Sai, le belle scoperte sono sempre dietro l'angolo. C'è da dire però che questo lavoro sulla pellicola sta diventando sempre più difficile. Questa edizione della rassegna peraltro cade in un anno particolare, perché quest'anno la Farfalla sul Mirino compie 20 anni. Per noi è un anniversario importante, però ecco, da quando abbiamo iniziato ci rendiamo conto che continuare a lavorare con la pellicola è sempre più complicato, nel senso che ormai gli archivi non ristampano più in pellicola da tanto tempo, non restaurano in pellicola, per cui le copie che rimangono sono sempre più segnate e soprattutto sono sempre più preziose, cioè molti archivi ormai fanno fatica a farle uscire. E quindi è probabile che anche noi piano piano dovremo aprire anche alle proiezioni in DCP o comunque abbandonare l'intransigenza della gioventù, ecco. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Si possono prenotare i biglietti gratuitamente dalle 9 del giorno precedente direttamente sul sito di Palazzo delle Esposizioni, palazzoesposizioni.it. L'indirizzo è sempre la scalina di via Milano, attraverso via Nazionale, dove è il Palazzo delle Esposizioni, e vi aspettiamo. La rassegna A qualcuno piace il classico, appunti di storia del cinema, 11ª edizione a Roma, Palazzo delle Esposizioni, dal 25 gennaio al 31 maggio 2022. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Finesi dell'associazione La Farfalla sul Mirino, uno dei curatori. A presto! Grazie a voi, grazie. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.